Eccoci di nuovo alla fuga del gatto di domenica pomeriggio su Radio Wombat in un ritardo abbastanza brutale. Clamoroso, come al solito. E vabbè, ma d'altra parte, oh, siamo la domenica pomeriggio e ce la prendiamo questa libertà Sì, di poi ci fare. vuole, comunque, cioè, dovete immaginare mettersi i bigodini, Eh comunque sì, le è ciabatte, cioè comunque è una roba un lunga. po' lunga. Sì, poi insomma, appunto, siamo gli unici coraggiosi che fanno la domenica una trasmissione, insomma, almeno questo ce lo dovete concedere un po' di ritardo. Sì, poi ci siamo rimasti sotto ancora dall'altra settimana, dalle 3 ore di Esatto. Teleton, quindi insomma abbiate pietà, ci è voluta Sì, una che poi in settimana. realtà ho guardato il podcast, erano 2 ore e 20, ma a me mi sembravano Sembravano 4. 6, Ah, comunque va bene. sì. Che altro agli altri, Sì, secondo me, gli sono infatti. sembrate 6. Sì, poveracci. Poveracci, gli ascoltatori. Quindi, domenica, che giorno siamo? Il 16? No, sì, è il 16, siamo il Ciao. 19, Sì, 19 19. marzo del, of course, 2017, e prima di iniziare, vi diamo subito le coordinate del Wombat, che sono sempre le solite, ma magari ve le siete dimenticate o è la prima volta che ci ascoltate, Tante volte. novellini. E il sito wombat.noblogs.org, la pagina Twitter, twitter.com/radiowombatfi, la pagina Facebook per chi non brilla di fantasia, facebook.com/radio-wombat-firenze, e la casella di posta wombat@insiberia.net. Queste le coordinate. E adesso iniziamo ad entrarci subito nell'argomento di oggi. Oggi vi facciamo sentire tanta bella musica, Roba seria. roba seria, mettetevi comodi, ma roba anche in un certo modo non troppo. Non vi facciamo far sentire, non lo so, quelle sinfonie piene di tromboni, violini, cose disturbanti. Oggi siamo abbastanza. Non state magnanime. Sì, dai, alla fine vi potete mettere comodi e godervela. Oggi parliamo infatti di Robert Alexander Schumann, pianista, compositore, Critico. quant'altro, sì, insomma, musicista tedesco, vive appunto, diciamo, nella prima metà dell'Ottocento e si può considerare sicuramente uno dei più importanti esponenti del romanticismo, ma di quel primo romanticismo che poi, insomma, beh, chiaramente si è evoluto, comunque ha preso anche un po' altre strade, però effettivamente in Schumann si trovano i caratteri essenziali che poi danno il via a tutto e tra l'altro si trovano i caratteri anche un po' estremizzati. Vedremo che, insomma, Schumann ha avuto una vita un po' particolare, soprattutto una fine di vita un po' particolare, vissuto anche poco, poveraccio. E sì, diciamo che incarna proprio il classico musicista romantico sotto vari punti di vista. Sì, in generale è proprio, diciamo, considerato da molti, insomma, comunque riconosciuto come uno dei più grandi compositori della musica romantica, come diceva la Mari, uno dei primi fondamentalmente, perché poi appunto nasce nel 1810, le prime composizioni sono degli anni 30, quindi ecco, rappresenta proprio l'artista nel post-Settecento, cioè proprio alla fine del ciclo settecentesco, con tutto quello che ha significato per la musica, per l'arte e per la storia, proprio con la S maiuscola, diciamo questo nuovo ciclo, appunto, questa nuova Ondata. ondata proprio che più in questo momento più che in altri della storia in generale della storia della musica crea proprio una frattura abbastanza evidente col passato, anche in termini proprio stilistici, proprio perché il romanticismo in tantissime, con tutte le sue declinazioni in tantissimi campi, è proprio dotato di grandissime personalità imponenti, insomma, personalità artistiche, in questo caso insomma, musicali, di quelle di cui ci occupiamo. E la musica di Schumann riflette proprio la natura profondamente individualista del romanticismo, no? Intellettuale, esteta e poco compreso in realtà poi in vita, proprio perché a differenza di altri autori e anche un po' successivi, è quello che forse ha più difficoltà poi a inserirsi nel proprio tempo, no? Con le sue novità, con le sue specificità musicali, ed è paradossalmente poi però rispetto ad altri, come Chopin, come Liszt, ha poi però una paradossalmente diciamo una rilevanza maggiore forse in quello che verrà poi post romanticismo, cioè Schumann sarà molto importante e verrà poi molto ripreso, molto citato anche da tutta quella musica e poi classica e poi andrà nel post romanticismo a svilupparsi poi nel futuro, quindi paradossalmente molto avanti anche, no? Molto, è stato molto, appunto, uno dei primi, ma poi ha gettato veramente delle basi a tante cose che sono venute dopo. Sì, è stato un po' simbolico, potremmo dire. Sì, proprio per come ha trattato l'armonia, il ritmo, il rivoluzionario ruolo del pianoforte proprio nella composizione, no? Dell'uso del pianoforte. Sì, tra l'altro mi veniva in mente che non l'abbiamo fatto apposta assolutamente, però è veramente calzante che abbiamo iniziato con Scarlatti, perché la nostra sigla esatto, è La fuga del gatto di Domenico Scarlatti, se non ve lo ricordavate, ed è proprio effettivamente preciso passare da Scarlatti a Schumann, perché sono i due esempi perfetti di un'epoca che finisce e l'altra che inizia, essenzialmente. Sì, se si vuole capire bene questa cosa, appunto, del ciclo, c'è una citazione breve di un critico musicale che scrive appunto che Haydn nella letteratura e Schumann alla composizione intuiscono che un ciclo storico si è concluso e che occorre una svolta radicale. In comune essi hanno la percezione di vivere e operare dopo una frattura, dopo l'esaurimento di un percorso, ma a differenza di molti contemporanei, Schumann non trova facilmente il dialogo con la propria epoca e con la nuova situazione sociale e culturale. Quindi, eh sì, vedremo. Insomma, questo fa capire quanto appunto fosse particolare, ecco, la sua opera. Eh sì, vediamo che poi alla fine lo vedremo. L'ultimo pezzo che vi facciamo ascoltare è proprio di rottura totale, una dichiarazione di guerra un po' contro la musica della sua epoca. Eh sì, in generale le sue opere, no, contengono questo passionalità molto, molto intensa, alternata a questi sentimenti molto, molto intimi, appunto delicati, sensuali. E il suo stile è ricco di sfumature, ma sempre molto chiaro e preciso nella condotta delle parti ed espresso spesso attraverso un uso dell'armonia molto personale, molto nuovo, che come avviene per i grandi contemporanei, no? In particolare Chopin, Liszt sono citati, si rende immediatamente riconoscibile all'orecchio, quindi diciamo per i più attenti Schumann è molto riconoscibile, no? Sì. Proprio per questi brani di pianoforte, no? Spesso piccoli, accostati uno all'altro, che compongono poi opere più grandi, come quello che andremo oggi ad ascoltare, a presentare. Eh sì, perché oggi non vi parliamo di Schumann in generale, anche se vi racconteremo appunto di lui, della sua visione, della sua vita e tutto quanto, ma ci concentreremo in particolare su il Carnaval di Schumann, che esatto, è una composizione del, oddio, si diceva prima del 39? Sì, il Carnaval è composta tra il 34 e il 35. Sì, 34-35. E opera 9, Carnaval. Questo 39 mi era rimasto oggi in è tutto testa, il giorno il 39, perché c'era la foto con scritto sotto Schumann 39 e la Mari ha visto niente, quella. Sì, ma dai, deve essere successo qualcosa nel 39. Qualcosa sarà successo sicuramente. Sì, non lo so, vogliamo parlarne subito, ne parliamo dopo, magari facciamo una prima piccola, sì, una piccolissima introduzione al Carnaval, poi facciamo sentire magari subito un pezzo. Punto Carnaval, opera 9, è una composizione per pianoforte che Schumann dedicò al violinista Karol Lipinski. L'opera è appunto sottotitolata Scène mignonne sur quatre notes, piccole scene su quattro note, perché appunto consiste di 22 pezzi per piano uniti da un motivo ricorrente. In ogni parte del Carnaval sono presenti l'una o l'altra o entrambe le seguenti serie di note, che sono la mi bemolle, do e si, la bemolle, do e si, che in tedesco, cioè nella notatura tedesca delle note, sapete che a volte le note hanno delle notazioni diverse, no? Cioè se si accostano a un codice diverso, non per forza la sol, sì, come sì, quelle sì, inglesi, per esempio, no? Succede. Eh sì. E, in questo caso, appunto, la, mi, me, bolle, do e si corrispondono alle lettere A, S, C, H, e qui c'è una specie di roba tipo, non so, all'Harry Potter, non lo so, queste cose è un po' così, ma non era il primo, peraltro, no, di questo doppio significato con i codici all'Indiana Jones. No, se cioè in realtà ci sono degli esempi illustri, sì, anche chiaro, prima, dopo e quanto, se mi viene in mente Bach, la famosissima, l'ultimo contrappunto dell'arte della fuga, che dove Bach ci giocava un sacco, perché dentro ci si nascondeva il suono del suo nome, perché Bach le cifre B, A, C, H, B, è Si bemolle, A è La, C è Do e H è Si in tedesco. Esatto, è uguale anche qui infatti, Mari, perché entrambe le serie musicali corrispondono al nome tedesco della città di Asch, quindi A-S-C-H, l'odierna Ascheca, dove nacque la fidanzata di allora di Schumann, Ernestine von Fricken, alla quale è poi anche dedicato il 14° movimento del Carnaval. Eh sì, e Clara non l'ha presa bene. Però. Eh no, poi su Clara c'è tutta un'altra storia, lo diciamo, questo è importante. E queste lettere poi ovviamente, come in Bach, ricorrono anche nel nome del compositore, S-C-H, Schumann appunto. Quindi tante volte uno si scordava di chi erano e così ce l'aveva sì, subito chiaro. Addirittura mi hanno raccontato che anche Brahms aveva fatto questa cosa, perché... usava a firmarsi, era, sì, di fatto era una sorta di sigla di firma con fa la mi, usando appunto il fa la e mi, questo intervallo che poi volevano dire fa era F, la era sempre A, mi era E, che era la sigla per, ora non mi ricordo più in tedesco come si dice, comunque la traduzione in italiano sarebbe libero nella solitudine. Ecco, cioè, eh? Proprio a dei livelli, che stile. Attenzione, oggi, che stile. Oggi numeroni, e quindi codici cifrati, attenzione, cioè, sette, qui stiamo andando un po' nel campo del coccole al silicio. Bellissimo, delle cose no, però secondo me gli facciamo... Sì, gli facciamo piacere allo schiavo, perché comunque, capito... Queste, capito, muoversi comunque nell'ombra, nel torbido, nel cifrato. Sì, ma poi dobbiamo dimostrare che noi ne sappiamo di tutti i campi. Esatto, vedi? E siamo proprio tuttologhe, così, della domenica. Ecco. Sì, ecco. Sappiamo a pacchi e pigliate questi pacchi, alla fine, se no, che si faceva a fare? Cioè, in qualche maniera bisogna sfogarsi. Così, per cui io direi che appunto il Carnaval è composto di tantissime parti, tantissimi piccoli interventi. Sì, sono delle specie di figurine. Delle figurine, proprio, vi dovete immaginare un po' come avevamo già detto del quadro di un'esposizione. Esatto. Lì sono forse un po' più larghe, perché appunto hanno delle, i tableau sono appunto legati più al visivo. Qui invece che ai quadri sono legati a dei personaggi. Sì. Alcuni realmente esistiti, alcuni inventati completamente di fantasia, ognuno che hanno ovviamente dei significati per l'autore, e sono proprio citati direttamente, cioè i movimenti, non lo so, per esempio il secondo, Pierrot, che è il Pierrot, è la figura proprio della la maschera di Pierrot. Ah sì. Poi c'è un Arlecchin, appunto Eusebio Florestano, poi diremo chi sono. Coquette, ma addirittura si parla di altri musicisti, no? Quelli più spesso titolati, importanti anche dal punto di vista di un musicista romantico, perché... Esatto, ci sono titolati... Chopin. Sì, poi c'era anche Paganini. Ora te lo dico, quindi, Paganini, no? Esatto. Che è il sedi. Insomma, sì, che Paganini era proprio il virtuoso romantico. L'esecutore per eccellenza, sì, ecco. E poi c'è appunto un pezzo dedicato a Clara, un pezzo dedicato, come dicevamo, a Chopin, Pantalone e Colombina, quindi proprio le figure della commedia dell'arte. Cioè, ogni piccolo intervento sono 20 parti, oltre ovviamente all'iniziale preambolo. Sì, ce ne sono due, poi che sono Sphinx, che normalmente non viene quasi mai eseguita o registrata, quindi generalmente insomma non si trova. E non so bene perché il 9 Papillon, non gli piaceva, che è un rimando probabilmente all'opera, proprio sì è una autocitazione sostanzialmente, che Papillon è un'altra opera di Schumann, quindi qui la cita al punto numero 9. Comunque insomma sono proprio numerati, sì. E poi c'è un altro intermezzo, per cui in tutto fanno 22, però insomma due non sono numerati, ma esatto. Insomma, ok, sì. Io direi che si può far sentire intanto una. Sì, iniziamo col preambolo. Il primo è il preambolo. Avrebbe la bemolle, un senso in effetti. Così, la bemolle quasi maestoso. Sì, quindi sono tutti pezzi molto piccoli, quindi insomma non vi rilassate troppo. Vi spaventate. Torniamo prestissimo. Thank you. perdonerete la registrazione è frusciata, però d'altra parte un po' ne vale la pena perché è una registrazione di una esecuzione di Myra, credo si dica, Myra Hess, che è una pianista vissuta inglese, vissuta tra il 1890 e il 1965. È una delle esecutrici più importanti di Schumann. E, insomma, ci è capitato tra le mani la sua registrazione, abbiamo scelto questa. Non tutti i pezzi che vi andremo a far sentire sono eseguiti da Myra Hess, ma gran parte sì, e insomma li riconoscete perché hanno sto fruscio tipico delle vecchie registrazioni viniliche. È quella col fruscio. Esatto, però e d'altra parte ne vale la pena, dai. Importante che sia una donna proprio perché è stato un po' un caso, però in realtà ci aiuta anche sì. A introdurre appunto anche la figura di Clara, Clara Josephine Wieck, poi Schumann, sposata a Schumann, perché appunto Clara era è stata una delle pianiste più importanti dell'era romantica, quindi raramente, come sappiamo, succedeva che le donne potessero arrivare a un certo livello di istruzione che poi gli permetteva di, insomma, di eccellere nelle arti. Lei è stata una dei rari casi, e non a caso infatti il rapporto con Schumann, insomma, e tutta la insomma, il contatto, la corrispondenza che lei ha avuto con tutti gli altri artisti che in quel momento si muovevano appunto nel milieu dell'apparato romantico, ecco. Importante proprio perché non è appunto solo la moglie di Schumann, ma una pianista, una compositrice, quindi una figura a sé stante e fondamentale, una delle poche. Tra l'altro vedremo anche poi dopo, in seguito, quando a Schumann iniziò ad andare veramente male anche da un punto di vista fisico, che insomma se non c'era lei, le sue opere lui non riusciva quasi più a suonarle, quindi insomma... Sì, tra l'altro c'è tutta la storia appunto anche di come il padre, forse vedendoci lungo, non lo so, aveva proprio fortemente cercato di impedire il matrimonio, perché appunto Schumann in vita non era, al di là che appunto riconosciuto dalla cerchia di intellettuali, di artisti, però non era un autore di fama, ecco. Celeberrimo in quel momento, quindi la famiglia di lei si era opposta fortemente a questo legame, a quest'unione, e che però appunto non servì, perché a 20 anni mi sembra si sposarono e rimasero insieme poi appunto fino alla morte di Schumann, e quindi insomma è questo interessante che siamo nell'Ottocento e ancora non c'è da stupirsi, insomma, comunque ancora le figure femminili fanno fatica a emergere, penso poi anche in altre arti, però in realtà quelle poche che sono riuscite in un modo o nell'altro a rimanere poi appunto nella storia, penso a Mary Shelley piuttosto che ecco, il romanticismo essendo appunto un po' nuovo, tra virgolette, a noi non ci sembra, però in quel momento sì, permette anche a figure femminili, ha permesso a momenti, solo in certi strati sociali chiaramente, però a figure femminili di emergere almeno una minima, insomma. Eh sì, anche perché nulla, c'era, però, poi lo vedremo, una grossa importanza, un po' questa doppiezza dell'anima femminile e l'anima maschile che si contrapponevano, e quindi insomma a un certo punto anche l'anima femminile doveva emergere. Sì, ecco, sicuramente rispetto ad altre epoche la femminilità comincia a acquisire anche grazie a figure appunto di intellettuali donne che erano riuscite a imporsi sulla scena. Eh sì, Mary Shelley sì, davvero. Mary Shelley, ma più. Penso ora, vabbè, era un po' prima, però insomma Jane Austen e Le Bronte, insomma le scrittrici della loro generazione, cioè, insomma c'era un minimo di... Si parla sempre di chiaramente classi privilegiate, ovviamente, però c'era un minimo di spostamento in questo senso, di ricerca di un'autonomia e di non essere soltanto più appunto come la povera sorella di Mozart, che io ce l'ho qui, e io ce l'ho qui sta cosa, me la capisco, giù la sorella di Mozart. Ma infatti sì. Cioè io ce l'ho qui, ce l'ho nel cuore. Purina, guarda. Grande. E va bene, adesso vi facciamo sentire altri tre di queste comparse, diciamo. Vi dovete immaginare un po' appunto delle idee, perché Schumann spesso faceva così, ma in particolare nel Carnaval, buttava lì queste idee, che erano tutte idee un po' diverse l'una dall'altra, perché ognuna voleva dare una pennellata diversa, appunto, come proprio una parata di carnevale, quindi ci sono varie maschere, vari personaggi. E però queste idee si avvicendano l'una all'altra in maniera molto morbida in realtà, cioè è un flusso, è qualcosa di non troppo, cioè non c'è una spezzare nettamente, per cui una lotta, un contrasto, no, in realtà anzi si avvicendano molto e spesso bisogna stare attenti, insomma, per accorgersi sì, che finisce una e inizia l'altra. E tra l'altro, ora poi nei pezzi successivi entreremo anche meglio nel dettaglio, questo contrasto che cioè, di idee contrapposte, di anime contrapposte in lotta l'una con l'altra, c'è chi l'ha interpretato in maniera più soft e chi in maniera più brutale all'interno del romanticismo. E anche questo di continuamente mischiare e fondere le varie anime era tipico di Schumann in qualche maniera. E quindi, insomma, vi sfidiamo a capire dove finisce un pezzo e inizia l'altro. E il primo che ci andiamo ad ascoltare è Pierrot in Mi bemolle, l'indicazione qui è moderato. E il secondo è Harlequin, l'Arlecchino, appunto, in Si bemolle, qui invece è vivo. E poi, attaccato sempre, ci ascolteremo il Walzer Noble, quindi nobile valzer, Si bemolle un poco maestoso. Quindi iniziamo col Pierrot, però prima. Thank you. No, la cosa interessante anche ora, al di là del flusso continuo di questa parata e sfilata di maschere, anche appunto si diceva che non viene portato a compimento niente, cioè non c'è un'idea che viene né che prevale sull'altra né che non trovo quasi mai, a differenza poi invece della musica settecentesca, no? Manca proprio il concetto di risoluzione. Sì. Sia tecnicamente che anche proprio spiritualmente, cioè proprio una volontà di anche se vengono le variazioni sui temi di Schumann riprendono comunque delle strutture tradizionali come il valzer, appunto rondò piuttosto che valzer allemand, però poi in realtà non vengono mai risolte, no, con la tipica chiusura piuttosto che con una, ma rimane un po' perché l'opera al suo interno è proprio fatta così, è fluida, e un po' perché proprio fino alla fine, fino proprio all'ultimissimo pezzo, e comunque nemmeno poi troppo lì, cioè no. Nel senso rimane sempre un po' questo senso del sospeso, questo senso dell'inconcluso, e sì. Quindi una tensione che non si risolve mai, no? Sì, anche perché generalmente la conclusione vuol dire ritornare da appunto di partenza. Quasi sempre, la forma circolare, sì. E quindi non è di per sé una conclusione, insomma, di fatto. È parte proprio di questo concetto poetico e artistico in generale, un po' del romanticismo declinato in maniera diversa in tutti gli autori, ovviamente Chopin è una cosa, Liszt è un'altra, e quello che si diceva di Schumann, del fatto che sia così poi più contemporaneo di altri, qualunque accezione si voglia dare al termine contemporaneo, però diciamo per capirsi proprio questa modernità, cioè di evitare una risoluzione classica, ecco, della forma, rimane poi, no? Resta. Sì, guarda, si potrebbe, mi veniva in mente che si potrebbe fare il paragone proprio tornando a Scarlatti come appunto emblema del Settecento, perché Scarlatti comunque usa una forma monotematica, quindi c'è sempre un solo tema, tecnicamente c'è proprio un ricorrere all'uso della tonica e poi la dominante e poi ritorna la tonica. Quindi anche proprio nell'armonia c'è uno schema che è sempre molto preciso, netto, certo. Quindi tu sai sempre dove va a parare in qualche maniera. E invece in Schumann c'è l'esatto opposto, non c'è un solo tema, ma c'è una continua allusione, una continua fusione di un tema con un altro tema e un ritorno poi al tema iniziale. Quindi è tutto appunto un flusso e non c'è un'unica idea netta, precisa, chiara, semplice anche in qualche maniera, sì, da seguire. Infatti, come dicevi te, anche sotto il concetto della variazione usata da Schumann in questo, ma anche in altre opere, appunto, la variazione è un procedimento musicale appunto grazie al quale l'idea di base viene riproposta con delle modifiche più o meno profonde, no? E quindi ritmi, timbri, contrappuntistiche. Però in questo caso, insomma, la variazione, nella variazione lui inserisce anche proprio parti di altri brani, quindi si diceva appunto il valzer, sì. la forma valzer, la forma rondò, eccetera, e lo sviluppo della forma sonata, e poi proprio brani a sé stanti che fanno della variazione il loro principio formale, proprio tema con variazione. E questo anche aiuta a dare questo senso di, no, contribuisce a dare questo senso di spezzatura legata però da un tema, però appunto come tanti frammenti diversi, come un mosaico, no? Che però poi non compone mai un'immagine chiara, finale, ma resta sempre un po' sospeso, appunto. Cioè, tutta questa decostruzione della forma è già proiettata in avanti musicalmente, molto in avanti, no? Rispetto anche a quello che dicevi te. Proprio perché anche se è un primo Ottocento, è un primo romanticismo, ma paradossalmente è davvero quasi, quasi proiettato. Ora non voglio esagerare, però insomma sicuramente in questo senso avanti, ecco. Eh sì. Ed è interessante proprio per questo. Si diceva appunto del concetto di sdoppiamento, no? delle due anime. Sì, che ci serve per introdurre anche i, esatto, prossimi due. Del romanticismo. Perché appunto in Schumann in particolare il concetto di due anime che convivono in una stessa personalità artistica e che in modo diverso perseguono lo stesso ideale rappresenta proprio un concetto fondante del romanticismo ottocentesco, che trova i suoi riferimenti in letteratura, nella musica e nell'arte. ma anche se si vuole in un modello sociale, no? Questo artista che è in bilico tra la compostezza pubblica e la passione estrema, personale, dirompente, no? E questi sono espresso poi da personaggi dei romanzi del primo Ottocento, se si pensa a Rosso e Nero e Stendhal, appunto Orgoglio e Pregiudizio della Osten, eccetera. Così in musica, e in particolare con due personaggi che sono filosofici in un certo senso, no? Rappresentativi di due idee. Sì, due archetipi proprio. Esatto, che vengono espressi da Schumann, proprio nominati, cioè dei due maschere del suo Carneval, che sono però... Sì, che sono le più importanti, forse. Le più importanti, e sono proprio l'espressione di queste due anime, mm-hmm. Che si diceva, il L'Eusebio e il Florestano. Sì. Cioè, l'uno incarna, no, la figura battagliera, ridondante, eroica... il Florestano. Esatto. Del romanticismo dell'autore, poi, e l'altra invece più dolce, malinconica e fragile, dell'Eusebio, che poi tra l'altro sono, se vogliamo allargare, sono il classico appunto il riferimento alla cultura classica, l'Apollineo e il Dionisiaco, sì, il femmineo e il maschile, cioè comunque la matrice poi è sempre sì evidentemente è un, si andava a pescare lì. E lui proprio, Schumann, con questi due nomi, a seconda del suo stato d'animo, usava firmare addirittura la sua musica, i suoi scritti, sulla io non so il tedesco, quindi perdonatemi, Neue Zeitschrift für Musik, la rivista di progresso musicale da lui fondata, che fu il manifesto di un'intera generazione di musicisti romantici. Quindi queste due figure, Florestano e Eusebio, queste due parti della sua anima artistica, a un certo punto proprio... cioè, lo possedevano, cioè lui proprio firmava a nome di uno o dell'altro a seconda di come si sentiva, quindi proprio qui si comincia, cioè, questa cosa viene portata all'estremo in Schumann. E beh, viene portata all'estremo anche perché, lo vedremo, insomma, non finisce bene, Schumann finisce in manicomio, insomma, e sì, con una diagnosi che ancora non esisteva, la psicanalisi, non si parlava di, cioè neanche la psicologia, insomma, non c'era stato ancora, cioè non si parlava di schizofrenia, ma di fatto la diagnosi era quella. Sì, ecco, in lui questo arriverà poi alle estreme conseguenze, e in generale, appunto, comunque, queste, come si diceva, queste due figure sono proprio l'esemplificazione di queste due anime artistiche che convivono nel creatore delle opere, e che tornano, per questo le abbiamo nominate, perché appaiono appunto nel Carnaval, e appare proprio un pezzo, appaiono le due figure di Florestano e di Eusebio, e, giusto? Sì. E c'è proprio, non mi ricordo il numero, appunto Eusebio è l'anima che si diceva prima, quella più gentile, il 5 e il 6 del Carnaval, sì. Ora ho smesso di contarle, sì, ma mi sembra 5, di 6, sì. E sì, Eusebio appunto l'anima più gentile, in qualche maniera romantica, in senso come adesso si usa, sì, immaginarlo, ecco. Cioè l'animo nobile, innamorato, gentile, amante della bellezza, eccetera. Invece l'anima, il Florestano, più impetuoso, anche in qualche maniera passionale, sì, impulsivo, giovanile, insomma, e via. E sì, diciamo che poi questi contrasti qui, tra l'altro, sono contrasti che, per esempio, Goethe, insomma, personaggino che col romanticismo, sì, direi, ecco, che ha avuto un bel po' a che fare. Goethe, ad esempio, temeva molto questo conflitto, e sperava di riuscire in realtà a trovare un accordo tra a le risolverlo. Due. Sì, un equilibrio, e quindi la poetica di Goethe è più tesa a cercare un equilibrio. Ecco, Schumann no. Schumann era un ragazzo un po' estremo, se la viveva così. Neanche ci prova, insomma, no. Proprio è dilaniato è da questo conflitto. Lui. Sì. Come diceva Woody Allen, ero schizofrenico, ma ora stiamo benissimo. Esatto. Quindi, insomma, esattamente. È il suo. Perché se uno la butta in caciara non siamo contenti, però è il suo. Il suo. E che, sì, ve li facciamo sentire a questo punto, Eusebio e Florestano? Direi, o avete altre? Tutta sta menata, se no... Così ve lo potete sentire da soli. Esatto. Quindi prima Eusebio... In mi bemolle adagio, che è appunto il lato calmo, così un po' più... E il Florestano in sol minore, appassionato. Quindi già le indicazioni sono... Le indicazioni infatti sono sempre molto... chiare. Insomma, non è che si lascia tanto alla fantasia. Sì. No. Sì. Eusebio e Florestano. Cioè, non so se notate come finisce. Che non finisce. Non finisce, no, finisce. Ti lascia così. E beh, sì, poi avrete notato ovviamente, insomma, che non vi stavamo prendendo in giro. Era vero che c'era un contrasto netto tra le due anime. Insomma, si sentiva piuttosto bene. E vabbè, sì, ora raggrupperemo un po' di più i brani che vi facciamo sentire, perché è tipo il grind quest'opera. E lui va così. C'è i pezzi che durano 30 secondi. La fretta di furia, ragazzi, sì, se la giocava un po' così. Sì. Beh, sai, non le stiamo facendo sentire pezzate, chiaramente dovete immaginare che sono parte di un'unica sonata, quindi insomma, ecco, sì, l'ascolto dovrebbe essere dal primo all'ultimo e chiaramente, probabilmente... dà meno il senso dell'interruzione, sentirlo tutto eseguito. Io non l'ho mai sentito eseguito dal vivo, purtroppo. No, neanche io. Non lo so com'è tutto, ecco, di seguito, come doveva essere. Poi, insomma, perché poi dura una mezz'oretta, è tutto, non è che è troppo lungo. Però chiaramente sentito fluido, probabilmente fa un effetto anche un po' diverso. Però sì, cioè, è un po' così, un po'... Ah, si diceva appunto che rispetto a... già a Mussorgsky, no? Che è l'opera che forse tra quelle che abbiamo presentato c'ha un po' la struttura più simile, c'è delle grossissime differenze davvero, cioè, nel senso, nonostante tutte e due siano quadri, quindi siano tagliate, diciamo, in un, no, spezzate per un, però appunto qui c'è proprio un concetto, è veramente diverso, ecco, un po' perché la contemplazione di Mussorgsky era più visiva e quindi i quadri dovevano rendere, ci voleva più tempo anche a rendere un'immagine più visiva, e però fa proprio capire come un concetto, cioè il concetto alla base non è più la visione, cioè io guardo, no, un tableau ed è da quel tableau, cioè qui è come un po' tra il figurativo e l'astratto, no? Cioè, sì, sono delle pennellate, sono delle... Cioè, qui sono proprio delle idee, cioè le idee che prendono la forma musica, di là sono proprio le immagini, cioè che la musica deve rappresentare delle immagini, qui la musica non rappresenta delle immagini, rappresenta delle maschere, che però sono delle idee fondamentalmente. Sì, perché sono appunto le sfaccettature dell'animo umano, nel senso sono ognuno un colore, quindi non sono da sole una scena a sé stante, un quadro, diciamo, sì, appunto. Sono un'idea, sì. Quindi nonostante che la forma sia uguale, no? Una sonata con all'interno più immagini, però il concetto è proprio... completamente diverso, cioè il risultato è completamente diverso, ovviamente. Eh sì. E ora quindi raggrupperemo un po' di più i brani in modo da concedervi l'ascolto di ben circa 3 minuti. Perché allora vi raggruppiamo Coquette, Réplique, Papillon e Ashsha, che sì, penso si dica così. Allora, dicevamo, sì. Coquette praticamente in si bemolle, indicazione è vivo, e pare descriva la domestica di casa Vic, quindi di casa di Clara. Della famiglia di Clara, sì, questa proprio il tipico, la figura della domestica civettuola e... Che ora qui si scende proprio nel attenzione. Beh, siamo alla fuga del gatto. Sì, cioè il gossip, se no oggi che è, che pare avesse trasmesso la sifilide a Schumann. Ora, mi sembra un po' sessista come immagine della sì. Domestica civettuola, gli passa la sifilide. Ecco, è un po' una segretaria. A me proprio non mi piace tantissimo questa immagine qui. Però devo dire che chissà, forse era realistica, non lo so, cioè, all'epoca, insomma, la domestica, e comunque, come diceva Tutò, la serva serve. Non aggiungo altro. E comunque gli mancava proprio solo la sifilide. E gli mancava la sifilide, a lui ce l'aveva, aveva preso anche la sifilide. No, tra l'altro, tra le varie malattie, mi raccontava un insegnante di storia della musica, che molto brava, che tra l'altro mi ha dato l'idea di cioè, da lei ho preso la spunto. Musa. Sì, per questa trasmissione. Però raccontava che, ad esempio, tra i vari problemi che aveva Schumann, di varia natura, c'era anche che era completamente ossessionato da riuscire a allargare le proprie dita per poter suonare meglio il piano. Certo. E quindi, siccome l'anulare non cioè, c'è una fascia muscolare che ti impedisce che vada troppo in alto, lui con notevoli, insomma, immaginatevi la medicina del tempo e insomma quanto ne sapeva, gli facevano queste fantastiche cure con il mercurio. Benissimo. Sì. Oltre al fatto che lui si costruiva queste macchine, marchingegni diabolici per allargarsi le dita, faceva delle cose terribili, delle torture allucinanti, pare. Era un ragazzo che ci teneva. Era un tantino ossessivo. Era un po' così. Però di fatto questo mercurio, ecco, non è che proprio sia noto per fare bene. Il mercurio serve anche per... Non vorrei tirare uno sfondone, no, è l'arsenico, per la sifilide. Sai che mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente anche a me. Poi in realtà ti intossicava, quindi. No, era il mercurio, secondo me. Era il mercurio, non vorrei dire una castroneria, perché insomma. No, io penso che infatti sia quello. Però, cioè, che tra i marchingegni per le dita, le cure del mercurio. Veniva usato, che però dall'altro lato poi non faceva benissimo. No, ti faceva impazzire. Comunque, un gran bel partito, cioè da dire che Clara proprio ci aveva visto lungo. E io un po' la capisco, perché comunque quando uno si fissa, insiste, e la gente dice: guarda, però questo qui tra 10 anni muore in manicomio, comunque c'ha la sifilide, fai te. Però quando uno si piglia la fissa, che gli voleva, quella se l'è voluto sposare. Complimenti, Clara, un'altra. Un chiappo, si direbbe. Nella storia ha fatto un bel chiappo. A Firenze si dice un bel chiappo, t'ha fatto. Brava. Sì, e quindi poi insomma di fatto è finito un manicomio, probabilmente anche grazie a queste fantastiche cure Direi che c'entravano qualcosina. Illuminate. Sì, Quindi va bene, Coquette, poverina, la povera domestica, si bemolle vivo, poi abbiamo Réplique, che onestamente non mi ricordo assolutamente di cosa tratta, ma vabbè. Ma credo sia un passaggio, cioè sì. Un po' come un, non lo so, la sto buttando lì, sì, ma credo penso anch'io. Sia appunto un po' come una promenade, piuttosto che un legato, anche perché poi ci sarebbe Sfinge. Sì, che però non daremo perché non daremo, si trova. E che anche quella, quindi probabilmente è un punto di passaggio che arriva al 9, che è Papillon, poi sì. Che è l'autocitazione di cui si diceva. Sì, Papillon, e che è in si bemolle sempre, siamo quasi sempre in si bemolle. Réplique passa in realtà da si bemolle a sol minore, ma insomma per il resto è sempre in si bemolle, con indicazione temporale prestissimo, cioè di andamento. E sono l'indicazione è lettre dansante. La lettre dansante, che sono quelle di cui si parlava prima, no? La cifratura delle note, che però in tedesco, la cifratura tedesca appunto ASCH, SCHA, che crea quello di cui sì. Si è parlato prima, non lo stiamo a ridire. Il rebus appunto di cui parlavamo. Sì, e poi in realtà come si esegue è impresto, insomma, però va bene. Quindi basta, facciamovi sentire questi qua così vi rilassate un pochino. Coquette, Réplique, Papillon e Ash Shaw. Sì, e quindi niente, avete notato forse che ogni personaggio è veramente chiaro, nel senso che le idee che vengono rappresentate, sì, è vero che sono sfumate l'una con l'altra, ma sono riconoscibilissime, insomma, l'una dall'altra. I personaggi cioè diciamo che non c'è un'unica grande anima composta da tanti, da tante facce, cioè, no, ci sono proprio tante anime che sì, convivono dentro una... Tante maschere, appunto. Sì, sì. E, sì, non so se notavamo all'inizio, appunto, Coquette, il personaggio che dicevamo della domestica civettuola, insomma, si capisce perfettamente, è reso benissimo in musica. Sì, sì, i tratti sono piuttosto rappresentativi, proprio il tratto musicale, che teatrale, sì, se vuoi, proprio come, sì, come resa, insomma. Nonostante poi, appunto, non porta mai a conclusione, sono così buffa per questo, insomma. Va bene, e ora veniamo a altri, raggruppiamo sempre adesso in tre altri brani, siamo sempre su tre minuti, quattro al massimo, e questa volta vi facciamo sentire un'altra esecuzione in un Meyer Hess, quindi niente frusci. Niente frusci. E, allora, siamo sempre, vi ricordiamo, nel Carnaval di Schumann, e adesso iniziamo con... qualche ora prima abbiamo sentito la domestica, ma adesso ci sono altri omaggi a dei personaggi reali, effettivamente esistiti e evidentemente piuttosto importanti per la vita di Schumann, per cui valeva la pena farli comparire in questa sfilata. La prima è Chiarina. Sì, pezzo numero 11. Dove si parla di Clara. Che è chiaramente dedicato a Clara Wieck e poi Clara Schumann, che sarà Clara Schumann, ed è in do minore, appassionato, descrive appunto questo carattere, questo personaggio, che è fondante per la vita dell'autore. Il successivo, invece, il 12, è Chopin, che direi non necessita di... Sì, ed è molto interessante perché è proprio un omaggio a Chopin, ma in realtà è Schumann, nel senso che non è... Sì, è un la sua visione agitato, di Chopin. Quindi sì, sì, piuttosto personale, sì. Però è bello perché si intravedono i tratti di Chopin, però comunque sia... No, è sempre passati Schumann. Passati da Schumann, ripassati da Schumann. Sì. E poi al... E poi Estrella. Al 13, esatto, Estrella, in fa minore, con affetto, descrive Ernestine von Fricken, che era poi... quella a cui era dedicato inizialmente il lavoro. E che era l'ex. Che era l'ex. Una ex in gioventù. Un ex importante perché appunto addirittura lui, quello che vi dicevo, no, della cifratura di Ash, A-S-C-H, era poi la città natale di lei, Ash in Germania, che ora si chiama in un altro modo. E sta cosa qua Clara, insomma, ha detto sì, non vabbè, lo so. Però a me mai dedicato un pezzettino. È perché lei ce l'ha infilata dopo, si vede, sai, le cose vanno un po' così nella vita. E poi rincorso... è arrivata Clara, allora lui se l'è rinterzata un attimo. Però inizialmente, diciamola tutta, era dedicata a questa... Il lavoro, appunto, l'opera era dedicata a quest'altra donna. Insomma. Sì, poi Clara, secondo me, l'ha rincorso col Mattarello e ha detto no, via. Probabile, insomma. No, no, ma ti faccio appassionato, il sol minore. No, ma abbiamo parlato sempre di te. Sì. Un scaglione. Abbiamo parlato, indovina un po', sempre di te. È vero. Bugiardi, va bene. Quindi, Chiarina, lo riconoscerete, e poi subito dopo Chopin, per gli appassionati di Chopin, insomma, vi invito a notare le analogie, e Estrella, appunto, invece con la vecchia fiamma, ecco. Ma inizia, no, se lo metto però mi ricordo andare. Di mettere il pezzo. Potrebbe andare, è più importante, sì, infatti. No, guarda, niente, continuo a fare delle cose a caso. Ah, no, c'è un problema. No, allora ecco. ve le metto in ordine diverso. Ottimo. Va bene, comunque sono diverso. Vi metto Estrella prima. Prima. Perché okay. Non me lo fa mettere. Vabbè, è uguale. Chiarina. Non te ne vorranno, Mari. Sì, no, però questo non è chiaro, cioè insomma, Clara, niente, non passa. Vi facciamo sentire intanto Estrella, perché è l'unica che adesso si riesce a sentire, ecco. Forse. Sì, c'è un po' di silenzio, ma poi arriva, giuro. Giuro che poi arriva. Ci siamo, ecco, allora questo quindi era... Estrella. Estrella, ci è successo qualche defiance tecnica. Colpa di YouTube. È così, YouTube ci frega, ci vuole male. E quindi appunto questo era il pezzo che Schumann dedica appunto a questa personalità, a questa donna. Vediamo che già appunto rispetto ad altri autori, il romanticismo appunto comincia a inserire proprio... riferimenti più personali, no? più diretti rispetto ad altri, ad altri momenti musicali, no? Di sicuro rispetto al Settecento, cioè Schumann, ma anche altri, siccome appunto il romanticismo ha una visione più introspettiva anche dell'artista, no? Quest'artista che non è soltanto una figura pubblica, ma anzi è, no? che è rivolto all'interno, al suo privato, alla riflessione, e quindi di fatto poi anche nelle opere questo ritorna, perché spesso nelle dediche, nella struttura, insomma, ma proprio nell'ispirazione ci sono riferimenti diretti, cioè proprio con nome e cognome in questo caso, ad altri musicisti, a donne amate piuttosto che a figure del teatro, dell'arte. Quindi ecco, anche in questo il romanticismo è piuttosto... nuovo, insomma, è una conseguenza dello stile e della filosofia, poi, no? Dell'estetica del dell'artista romantico. Eh sì, io nel frattempo sono riuscita a recuperare i brani che non riuscivo a far partire sul maledetta tecnologia che non mi vuole mai bene, e quindi adesso vi facciamo sentire quelli che abbiamo zompato prima, ovvero Chiarina. E a questo punto poi a seguire Chopin. Vai, vediamo se ce la facciamo. Thank you. ecco, sì. Delle versioni sempre un po' così. Anche Chopin si riconosceva, sì. Era passato da Schumann, però si riconosceva, era Chopin, accidenti. Sì, e poi Chiarina c'è da dire che sì, ok, ce l'aveva infilato un po' così, Madonna, però era un pezzone. Un pezzo, uno dei pezzi più belli, sì. Beh, quelli gli artisti si fanno sempre perdonare, come non è. Esatto. Proseguiamo nella nostra sfilata di carnevale di Schumann e altri tre pezzi, brani, e abbiamo Reconnaissance e poi Pantalone Colombine e Valse Allemande. Ecco, sì, come si diceva appunto anche qui, no? Due figure della commedia dell'arte, insomma, della, in generale del teatro, due maschere, Pantalone e Colombina, quindi sì, proprio le maschere. Come prima Pierrot e Arlecchino. Esatto, e poi il valse allemande, cioè appunto un valzer, di fatto una forma valzer. Quindi anche qui sì, una variazione però su dei temi, piuttosto, cioè il tema è insomma, universale nella musica classica, no? Quindi di nuovo lui appunto utilizza poi magari delle forme, degli stilemi, come dire, classici, insomma, sì, beh, diciamo, conosciuti anche, insomma, nel Settecento era molto tipico infilare a un certo punto. Sì, appunto, però poi li reinterpreta sempre, li riusa in una maniera personale sua. Certamente. E quindi, allora, ricapitolando, Reconnaissance è in La bemolle, ci spostiamo finalmente, La bemolle. L'indicazione è animato. Poi abbiamo Pantalone e Colombine, che è in fa minore presto, e Valse Allemande, che è in la bemolle molto vivace. Ma cominciamo da Reconnaissance. Thank you. Ecco, e quindi così era, si concludeva la figurina, diciamo, del valzer alman, del valzer tedesco. E siamo arrivati a Paganini. Abbiamo esatto, anticipato all'inizio che c'erano sì, che c'era due omaggi a due musicisti del momento. E beh, sì, c'era Chopin e Paganini adesso. Paganini è un intermezzo, è proprio qualcosa che in qualche maniera si stacca sicuramente dalla numerazione dei brani, ma insomma sì, è un po' un pezzo a parte. Sì, beh, appunto, un intermezzo, quindi già questa è l'indicazione dall'idea proprio della cellula un po' spezzata, insomma. È anche un po' centrale, forse. Sì, sì. E Paganini, sì, tra l'altro pensavo potrebbe essere bello, una volta magari facciamo una puntata della Fuga del Gatto dedicata a Paganini, insomma, sì, ci vorrebbe. Qui andiamo in stereo ormai. Ci tocca. Vabbè. Sì, anche Frau Blücher, che suona sì. Paganini. Ci sta. Vabbè. E suonava lei, insomma, ragazzi, esatto. Sapeva lunga, non è che Frau Blücher. Esatto. Comunque il destino è quel che è. Quindi. Non c'è scampo più per te. Esatto. Per me. Allora, quindi Paganini, ve lo facciamo sentire subito senza dirvi grandi altre cose, insomma, anche perché penso non ci sia troppo bisogno di presentare questo personaggio. Il brano è in fa minore, l'indicazione è presto e tra l'altro altra indicazione è che c'è un ritornello del valz alman e quindi insomma sì, del valzer tedesco che in qualche maniera ritorna. E poi proseguiamo, ma insomma siamo quasi a fine, quindi non state troppo a lungo su questo divano perché stiamo quasi per finire, ma intanto sentitevi Paganini. Insomma, è buffo come si può rendere un violino suonando un pianoforte, eh? È bizzarro. Eh sì, interessante. Questo era Paganini. Appunto, questo era Paganini, anche qui noi facciamo i nomi e i cognomi proprio. E rende proprio, no, questa capacità, questo virtuosismo di Paganini, la velocità, insomma, nell'esecuzione. L'impeto. Beh, ormai Madonna, no. Madonna, guarda come siamo ma perché sintonia. Le grandi menti viaggiano all'unisono, questa è una grande verità. Ah, che cultura. E lo vorrei dire. E quindi, diciamo che appunto... anche qui Schumann riesce a rendere veramente addirittura un altro strumento, quindi cioè riesce a rendere lode a un musicista che è virtuoso in un altro strumento con il pianoforte, quindi insomma anche qui di nuovo, no, ritorna questa capacità sua di restituzione di un'idea di fatto, insomma, no? In questo caso musicale, sì. di uno stile con un altro strumento, cioè, che non è proprio facilissimo, ecco. Sì, volevo fare un accenno che non è propriamente diretto, però insomma, è interessante perché raramente ci sono dei bei film sulla storia, non si sa perché, ma non riescono mai a fare dei grandi film sulla storia della musica classica, a parte rare eccezioni che confermano la regola come Amadeus, però in generale, ecco, anche su Schumann, sulla storia di Schumann, e di Clara, poi insomma tutte le varie, sono stati fatti diversi film in realtà, però non tutti, pochi sono, insomma, sono stati all'altezza, ecco, degli artisti di cui parlano, perché oltre a un primo del 44, Traume Rei, del regista Brown, che, non ha, che parla oltre di Schumann anche di Liszt, che però è in inedito in Italia, insomma io personalmente non l'ho visto, non si conosce. No, c'è stato poi il famoso Canto d'amore, Song of Love del 47, che è un drammone hollywoodiano con Catherine Hepburn che fa Clara, c'è cioè una roba veramente un po' imbarazzante perfino per me, che insomma mi accollo questa roba solitamente. Ma colazione da Clara. Colazione da Clara, una roba un po' da vergognarsi. E in realtà un bellissimo film, Sinfonia di primavera. Non ve lo dico in tedesco perché veramente non voglio far vergognare nessuno, del 1983 del tedesco Peter Schamoni con Nastasia Kinski, Rolf Hopper, insomma anche altri, insomma, altri attori abbastanza famosi. E il titolo riprende tra l'altro quello della prima sinfonia del compositore. E questo film, insomma, di che tra l'altro l'autore è in realtà uno specialista dei documentari, insomma ho fatto vari documentari anche sui pittori, su Marx Ernst e Friedrich, insomma qui offre un buon ritratto di insomma piuttosto verosimigliante intorno alle vicende biografiche di Robert, di Clara, di Friedrich Wieck, appunto il padre di Clara, nel periodo che va dal 1830 al 1841, e sinceramente è una delle poche biografie musicali decenti della storia del cinema. Ah sì, e... a me mi viene in mente soltanto quello su Mare Marat, Le Matin and the Monde. Esatto, sì, ecco appunto anche quello. Non è che ce n'è tanti altri. No, non ce n'è molti altri, soprattutto perché rischiano sempre di cadere un po' nel biografismo spicciolo alla Farinelli, appunto. Mm. E quindi qui lui riesce, appunto, è una coproduzione tra la Germania occidentale e quella dell'Est, ed è già interessante per questo, e la sceneggiatura ricostruisce abbastanza precisamente gli ambienti, le figure, ripercorrendo con attenta partecipazione appunto il cammino artistico del giovane Schumann, le numerose citazioni dal repertorio pianistico, insomma, funzionano, sono appropriate, spesso... appunto inserisce anche altri personaggi noti appunto del mondo musicale, si concentra sugli anni lipsiensi di Schumann, sul suo rapporto appunto difficile col padre di Clara e sul travergente amore per lei, e con esso appunto ricrea un po' gli ambienti concertistici, gli accesi dibattiti interni alla nuova generazione romantica e insomma la complessa situazione familiare di Clara, e termina con le nozze e l'esecuzione della prima sinfonia di Schumann al Gewandhaus sotto la direzione niente poco di meno che di Mendelssohn, quindi insomma è un film che restituisce abbastanza. E il film utilizza delle interpretazioni musicali di Wilhelm Kempff e di altri autori tedeschi, non so, di altri musicisti tedeschi. Bene, quindi lo vedremo, scoprivatevelo insomma questo film, lo vedremo. Sinfonia d'autunno, che è uno dei pochi appunto piuttosto decenti, ecco. Eh sì, vale la pena. Ma guarda come ci vediamo consigli proprio su tutto. Ora, ad oggi proprio... Pettinature sì, anche. Sì, poi passiamo, sì, ecco, proprio a consigli per gli acquisti. Sì, certo, sì, lo shopping. E va bene, quindi adesso ci mancano pochissimi brani alla fine. Vi facciamo ascoltare A Vos, Promenade e Pause. Una pausa finale appunto che sono in realtà 20 secondi, proprio il grind minimo. E poi prima di concentrarci sull'ultimo pezzo che è la chiusura un po' di cui poi vi parleremo, ed è fra l'altro è il pezzo più lungo, sì, che sono 4 minuti, è incredibile ma vero. Va bene, quindi sentitevi prima A Vos, leggiamo un po' le cose, fa minore la bemolle, l'indicazione di andamento è appassionato, e poi abbiamo Promenade, re bemolle, comodo. E Pause, la bemolle è vivo invece, che è un po' un ritorno al preambolo iniziale, in questa cosa che si diceva ciclica del annuncio un tema, lo sviluppo, poi passa un altro tema e poi comunque ritorno all'inizio, al primo tema. E quindi sentitevi intanto a voi, Promenade e Pause. Thank you. sì, vabbè, è stata stoppata un po' brutalmente. Noi siamo qui che sistemiamo, sì, no, lo smalto e poi è nato. Cioè, sì. Si è finita un po' così brusca, anche perché secondo... Brusca era un riferimento all'Accademia. Certo. No, perché secondo me doveva sfumare in quello successivo, però è stato interrotto per far capire che era diverso. E vabbè, pazienza. E prima di passare al prossimo pezzo, vi volevamo mandare un grande abbraccio a due inguaiati con la legge, perché anche, ahimè, in questo fine settimana ci sono arrivate brutte notizie, quindi due amici del Wombat, ahimè, si trovano lontani in un brutto posto e quindi, in un brutto momento, in un brutto momento, e quindi gli mandiamo un grande abbraccio, anche se purtroppo non ci potranno ovviamente ascoltare, ma magari ci ascolteranno più là, sicuramente gli auguriamo presto, ecco. E basta, ci salutiamo con un altro pezzo che è l'ultimo, il gran finale. Sì, anche della composizione, appunto. Sì, che è la marcia de Davis Bündler contro le Philistines. Sì, quindi la marcia... ora, io mi sento male a dirla questa cosa, perché sì, mi sento male per ovvie ragioni, però devo dire che è mitigata dal fatto che in realtà è una metafora, ovviamente. Sì, non parla di quello che pensate e voi. E quindi la marcia dei, diciamo, dei figli di Davide contro i Filistei, che però è metaforica appunto per rappresentare poi in realtà una guerra artistica, ideologica. Sì, che... dai, è il Davide come il Davide di Michelangelo. Sì, e di fatto, no, cioè, cerchiamo di farci niente, va bene, Mari, lo apprezzo, però mi sento male uguale. E no, in realtà no, è così che di fatto quest'ultima, appunto, parte che chiude tutta la composizione è un inevitabilmente, insomma, sì, significante, perché appunto rappresenta questa lotta artistica, quindi perché i nuovi musicisti del romanticismo, i nuovi artisti fanno, ingaggiano per imporsi nel loro secolo, nella scena, ecco, mettiamola così. Quindi sì, è proprio, come dire, gli eroi tesi verso questo obiettivo comune, cioè il superamento dei canoni formali settecenteschi e la libertà, l'acquisire la libertà dell'ispirazione pura nella musica e nell'arte. Quindi l'effettiva difficoltà di Schumann a rimanere entro i canoni formali, perché è vero, sì, il Settecento è finito, ma ovviamente non è che si taglia le secoli con l'accetta, nel senso, no? Le cose sì, sono sempre comunque... lasciano strascichi in assolvenza, e quindi insomma soprattutto nell'arte, quindi la difficoltà effettiva poi di passare a una nuova concezione estetica, che però come tutte, come appunto per autocitarmi, è che non si inventa nulla, non è che io tutte volte lo dico, però è così, nel senso, cioè, si viene sempre da quello che c'è prima, quindi di fatto anche gli artisti romantici poi mutuano, insomma, e necessariamente vogliono rinnovare ciò da cui vengono. Per cui questo, insomma, il Davide contro i Filistei rappresenta proprio un po' questo, cioè, insomma, questa lotta appunto per imporsi e per staccarsi dai canoni formali e per acquisire questa libertà totale dell'ispirazione pura, e che si deve tradurre nella musica e nell'arte. Forse in questo pezzi così come il Carneval si evince più che in altre opere, no? Di Schumann, magari anche più grandiose nelle sinfonie piuttosto che, no, in altri concerti. Forse però sono proprio opere come queste, proprio perché hanno la possibilità di fare dei riferimenti diretti. Sì, e di poi sono anche più moderne in un certo senso. No? Sì, non e poi sono. Beh, a me la cosa che mi colpisce è che appunto l'estrema incisività dei singoli riferimenti, nel senso che nello spazio di un minuto e mezzo, in questo caso 4 minuti, ma insomma c'hai da parlare, descrivere una poetica intera di una lotta tra correnti artistiche in qualche maniera, e te in 3 minuti riesci effettivamente a dire tutto quello che volevi. È estremamente incisivo. Eh sì, senza nulla togliere appunto alle sinfonie, alle sonate, ai concerti per solo, orchestra, però sono le raccolte di piccoli pezzi come queste, forse dove l'immensa ispirazione dell'autore trova poi l'espressione più libera, trova il modo di esprimersi maniera più esplicita, forse. Sì, ma paradossalmente secondo me anche il fatto di essere piccoli episodi, perché nell'intera sonata probabilmente... Beh, certo, sì, la forma aiuta. Sì, e poi sì, capito, un'intera sonata lunga e tutto quanto, è vero che hai più tempo per esprimere la tua idea, però la tua idea poi ne risulta un po' annacquata, volendo, forse ti confondi tu che l'ascolti. Sì, poi invece qui è proprio, boh, preciso. Sì, sì, sono appunto caratteri, come si diceva, sono riferimenti diretti e poi è proprio questa forma qui che è nuova in realtà, quindi sì. È già la novità di questa forma qui che non c'era. Sì, già solo in quello, sì. Sì, cioè nel senso, non, almeno fino adesso, non così, comunque, insomma, proprio fare i nomi e cognomi e tirare in ballo concetti filosofici, trasponendoli in, in un'esecuzione artistica, è poi nuovo, proprio è una cosa nuova che poi nel romanticismo tornerà, cambierà di forma e vedremo anche poi più avanti. Appunto abbiamo visto addirittura con Mussorgsky, che è successiva, però insomma... fa capire proprio che è una forma che poi ritornerà, ecco. Sì. Che è però nuova in questo momento. Va bene, vi lasciamo con quest'ultimo brano che è la chiusura, poi la conclusione appunto del Carnaval di Schumann. Le indicazioni che ci dà Schumann sono la bemolle e non allegro, tanto perché non si facesse volte dubbi. Poi si fa troppa festa. Esatto. E poi però dice anche ripresa di un periodo musicale da precedenti sezioni appaiono fugacemente e il pezzo finisce prestissimo, quello che io, è una roba che io mi sento dire da tutta la vita, essendo una lenta maledetta, prestissimo, quindi io questa cosa la soffro. Sì, e quindi sì, e basta, e poi la fuga del gatto finirà prestissimo, in dolore, un attimo. Sì. E niente, grazie di esserci, di averci ascoltati anche questa domenica e vi torneremo a insidiare con le nostre proposte musicali classiche domenica prossima, sempre più o meno a quest'ora, ma insomma cercheremo di essere un po' più puntuali e voi rimanete sempre all'ascolto del Wombat, perché dopo di noi comunque sia ci sono altre repliche, altre trasmissioni e tutto quanto, quindi rimanete in ascolto tanto che ci avete da fare. Date retta al Wombat, sempre date retta. A presto, domenica prossima. Ciao. Thank you.